Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo, come promesso, ieri abbiamo sospeso in parte l'approfondimento per rispetto dei funerali che si stavano per celebrare delle vittime, chiaramente del terremoto che ha colpito il centro Italia. Torneremo però sulle inchieste e sulle varie inchieste che riguardano da un lato l'utilizzo dei soldi arrivati in queste comunità, quanti soldi sono stati effettivamente utilizzati per mettere in sicurezza gli edifici, e poi, una volta appurato che questi soldi, ammesso non concesso, siano stati tutti utilizzati, cosa che non sembra, per mettere in sicurezza gli edifici, come mai gli edifici apparentemente messi in sicurezza non erano proprio. E qui c'è il tema anche della comunità locale, ne parleremo più avanti, quello che sta emergendo. Io lo dico perché vedo molte polemiche, giustamente, su come il governo centrale, i governi che si sono alternati in questi anni, hanno gestito la ricostruzione, per esempio, dell'Aquila, le norme, la pletora di norme e regolamenti. Però va benissimo chiedere allo Stato di vigilare, di non ripetere gli errori del passato, chiedere all'esecutivo e al governo di fare la massima attenzione sul tipo di ricostruzione e sui costi della ricostruzione. Però attenzione, siccome conosco questo paese, non vorrei che si desse sempre la colpa al governo e allo Stato centrale. Quello che sta emergendo dall'inizio di queste inchieste è anche una grossissima responsabilità di carattere locale. Quindi non iniziamo con la contrapposizione tutto il locale buono ed è fatto di cittadini, una comunità che si aiuta. Qui la gestione amministrativa, vedremo la responsabilità dei comuni, dei sindaci, delle province, e anche da quello che sta emergendo quasi un conflitto di interessi, per essere buoni, tra ruoli e società che vincono gli appalti e geometri. Dimostra che c'è stata anche, o meglio, ipotizza che vi sia stata anche una grossissima responsabilità della comunità locale, che poi ne ha pagato, ahimè, le conseguenze in maniera diretta. Di questo parleremo però anche dei dati che riguardano la nostra economia, perché come avete sentito dal nostro GR24, il vertice tra Angela Merkel e Matteo Renzi è in corso. Oggi vi sono stati dati sulla disoccupazione e sull'occupazione. Dico subito che, visto che il Presidente del Consiglio ha detto siamo bombardati dai numeri, dalle statistiche, dalle cifre, e sembra impossibile conoscere la verità, ma la verità, ognuno si può fare la propria opinione, ma i numeri sono chiari, le cifre non mentono. Nei mesi del mio governo la disoccupazione è passata dal 13,1% all'11,4%. Questo è innegabile. Il dato di oggi, però, visto che commentiamo il presente, è un dato brutto, e questo deve prendere atto anche il governo. Devo dire che il ministro Calenda ha già detto che sull'occupazione c'è ancora un lavoro enorme da fare. Perché al di là della disoccupazione complessiva, che è scesa all'11,4% contro l'11,5% di giugno ed è tornata ai livelli di maggio, i disoccupati sì sono diminuiti, ma attenzione, perché i disoccupati possono diminuire per due fattori, l'abbiamo spiegato molte volte: o perché si crea effettivamente nuovo lavoro, o perché alcuni di essi rinunciano alla fine a cercare lavoro, quindi non rientrano più nelle statistiche dei disoccupati, perché i disoccupati sono solo quelli che non riescono a trovare un lavoro cercandolo. Come si fa a vedere quale delle due è? Basta guardare il dato sugli occupati, perché gli occupati misurano tutti quelli che lavorano, fatto 100 la platea che è in età lavorativa. Ora, gli occupati sono calati di 63.000 a luglio rispetto al mese precedente, sono ancora in aumento di 266.000 rispetto all'anno prima, è il primo calo mensile dopo 4 mesi, e nel frattempo sono aumentati gli inattivi, e quindi 53.000 in più. Anche qui, primo aumento che fa il paio con la diminuzione degli occupati dopo 4 mesi. Sintesi, poi ne parleremo, insomma, anzi, parliamone subito. La sintesi è molto semplice: rispetto a un anno prima c'è ancora un dato positivo, ma se si guarda la congiuntura, quindi diciamo quello che è il mese su mese, è innegabile che questi dati segnalino un rallentamento della dinamica, di tutta la dinamica, anche perché È tornata a crescere fortemente la disoccupazione giovanile, è salita al 39,2%, due punti in più, ed è anche più alta, due punti più percentuali rispetto al mese precedente, ed è il dato più alto dall'agosto del 2015, quando il tasso era al 39,6%. Questo appunto vuol dire che l'effetto, come era anche presumibile, l'effetto, diciamo, governativo della decontribuzione del Jobs Act si è esaurito, intanto perché la decontribuzione vale la metà quest'anno, ma soprattutto perché un conto è approfittare delle norme del governo e della decontribuzione per assumere chi magari avevi già contratto o per scegliere di assumere, ma non si può pensare che l'occupazione si crei per legge e per decreto. E quindi, se l'economia non riparte o sta marciando, nonostante il dato di ieri sul PIL, che nel secondo trimestre dovrebbe fare 0,1, non più 0, ma sta marciando lentamente, è difficilissimo che i dati sulla occupazione e sulla disoccupazione vadano a migliorare. Su questo, dicevo, è intervenuto anche il ministro Calenda, ascoltiamolo, il quale ha detto: sì, il Jobs Act ha consentito di invertire una tendenza, però ora bisogna accelerarla. Dati di lungo periodo sull'anno sono positivi, c'è stata una battuta d'arresto. Qualunque sia il dato congiunturale, il lavoro da fare sull'occupazione rimane enorme e noi ne siamo assolutamente consapevoli. E dunque, mentre il Jobs Act ha consentito di invertire una tendenza, bisogna accelerarla. E accelerarla lo si fa mettendo in condizione le imprese di investire di più, non c'è un'alternativa. E l'inflazione? L'inflazione sarebbe utile per una serie di ragioni, se fosse non ultima quella che abbiamo un grosso debito pubblico, abbatterlo senza inflazione è molto difficile. Però al di là dell'inflazione, quello che per me oggi è il tema fondamentale è quello di sottolineare il fatto che, giocando sulle due partite dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, l'Italia ce la può assolutamente fare in una congiuntura che è difficile e rimarrà difficile. Su questo bisogna essere molto trasparenti. E l'inflazione a cui faceva riferimento il ministro Calenda è quella diffusa oggi dall'Istat, nel senso che siamo ancora in deflazione anche ad agosto, quindi meno 0,1% i prezzi complessivamente, i prezzi al consumo rispetto a un anno prima. Pesa soprattutto il calo del costo dell'energia, perché se uno va a guardare il cosiddetto carrello della spesa, quindi i beni di maggiore consumo, i beni alimentari, in cura della casa, della persona, aumentano dello 0,6% rispetto a un anno prima, quindi ad agosto del 2015. Gli alimentari hanno fatto più 0,3%, anzi più 0,8% scusatemi, rispetto a un anno prima. E ha in aumento anche i prezzi dei prodotti non lavorati. E poi c'è un caso, insomma, purtroppo non nuovo, ma va denunciato: chi è andato in ferie ad agosto anche quest'anno ha pagato un conto ben più salato di chi è partito a luglio, perché gli aerei, pensate un po', hanno fatto più 20% rispetto a luglio come prezzo medio rispetto a luglio. I traghetti più 16%, i treni sostanzialmente fermi più 0,2%. Anche i pacchetti vacanze ad agosto più 10% rispetto a luglio, più 10% villaggi, campeggi, ostelli, e alberghi e pensioni invece meno cari ad agosto rispetto a luglio dell'1,3%. Allora, invece ripartiamo anche dalle notizie di carattere internazionale, perché se da noi il dato congiunturale su occupazione e disoccupazione giovanile segnala una battuta d'arresto, negli Stati Uniti invece il settore privato continua a creare posti di lavoro sopra le attese. Si sono creati infatti ad agosto 177.000 posti di lavoro, un dato superiore appunto alle attese, e a questo punto la disoccupazione americana va al 4,8%. Ancora qualche battuta sul TTIP, quindi il trattato transatlantico, quello che dovrebbe portare a una maggiore liberalizzazione degli scambi tra Stati Uniti e Unione Europea, contestato da molti per la segretezza, per il rischio che vengano meno le garanzie europee su alcuni prodotti. Ma dicevo, oggi l'unica cosa da segnalare è una nuova posizione tedesca, questa volta a favore dell'accordo. Faremo di tutto per raggiungere l'accordo, il successo è nell'interesse della Germania, lo ha detto il ministro della cancelleria Peter Altmaier. La vicenda della Apple, la Commissione Europea, sostiene Apple, si riferisce ad un'aliquota fiscale effettiva che è fittizia. Non ci sono altre parole per descriverla. Apple nel 2014 ha pagato 400 milioni di dollari di tasse in Irlanda. Siamo stati uno dei maggiori contribuenti del paese, se non il maggiore. Secondo Apple, infatti, la Commissione Europea ha usato un denominatore sbagliato, riferendosi al numero dei profitti non attribuibili alle entità irlandesi. Però la vicenda resta tutt'altro che chiara, anche perché secondo le accuse Apple registrava come utili in Irlanda anche utili prodotti in altre parti del mondo, non solo in Europa, anche in alcuni paesi africani, anche in India. Abbiamo fatto il calcolo che, insomma, l'accusa di Bruxelles verso l'Apple, che porta Bruxelles a dire che l'Irlanda deve farsi dare 13 miliardi di euro di tasse non pagate, è l'accusa per cui Apple avrebbe pagato sui suoi utili lo 0,005%, quindi 50 euro ogni milione di utili. È come se, per dare l'idea, un dipendente medio in Italia pagasse di imposte in un anno tra 1 euro e 2 euro. Cioè, sarebbe veramente tutto in Irlanda. 1 euro, 2 euro. Per carità, ripeto, la Apple contesta la base imponibile, diciamo, il denominatore. Però... visto che stiamo parlando di Europa, Eurostat oggi ha diffuso il dato sull'inflazione, non solo in Italia, chiaramente anche a livello dell'area euro, è stabile allo 0,2%, con aumenti, sempre a livello europeo, più forti nel settore alimentare, più 1,3%, alcol, tabacco e anche servizi, più 1,1%, mentre continua il calo del settore energetico come prezzi, anche se in attenuazione comunque fatto ad agosto a livello europeo, meno 5,7% rispetto a un anno prima. Allora, prima di affrontare poi anche il tema dell'incontro, visto che l'incontro tra Angela Merkel e Matteo Renzi, come già annunciato nella nota congiunta, avrà soprattutto temi di carattere economico, chiaramente c'è sullo sfondo la contingenza del terremoto, immagino che si parlerà anche si inizierà a ragionare anche di quella che potrebbe essere una flessibilità che non concede la Germania, ma su cui la Germania deve essere d'accordo, mettiamola così, oltre che temi di carattere internazionale a partire dai migranti, ma sarà soprattutto di carattere economico, di questo ci occuperemo più avanti. Vorrei dare adesso l'aggiornamento della borsa invece, dove Milano guadagna lo 0,35% in questo momento, mentre Parigi perde lo 0,20%, Francoforte meno 0,40%, Londra meno 0,50%, il Dow Jones meno 0,34%. Perché Milano va meglio di altre borse europee? Soprattutto per le banche oggi. Unicredit guadagna il 3%, Unipol il 3% anch'essa, come Intesa San Paolo. Il 2,30% è il rialzo del Banco Popolare e della Popolare di Milano, il 2,20% quello di Mediobanca, poi Unipol Sai guadagna il 2% come Ubibanca, Generali più 1,80%. Chi perde? Titoli industriali, Tenaris meno 2,14%, Buzzi Unice meno 1,80%, Iux Net-a-Porter meno 1,60%, come Telecom Italia, l'1,40% lo perde ST Microelectronics e Campari, l'1% è il calo di A2A, Ferragamo ed Eni. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Come promesso, ci occupiamo delle inchieste sul terremoto e di quanto sta emergendo, cercando di fare una sintesi, perché si è mossa sia la Procura di Rieti che l'autorità anticorruzione di Cantone, hanno utilizzato entrambi la Guardia di Finanza. Sono vari filoni di inchiesta, anche perché sono oltre 100 gli edifici sotto sequestro solo da Amatrice, tra cui la famosa, ormai ahimè, scuola Capranica e l'ospedale Francesco Grifoni. Altri sequestri sono stati fatti nel comune di Accumoli, due le inchieste aperte a livello di procure, poi c'è l'autorità nazionale anticorruzione, una della procura di Rieti e una della procura di Ascoli. La procura di Rieti infatti ha sequestrato il server del comune di Amatrice insieme a tutta la documentazione disponibile nell'archivio e negli uffici tecnici del municipio. L'autorità anticorruzione, quella di Cantone, ha disposto invece controlli della Guardia di Finanza in diverse città italiane e ha acquisito documenti in enti pubblici e sedi nelle sedi di ditte che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione della scuola di Amatrice crollata dopo il sisma, appunto, del 24 agosto. Allora, già ieri dicevamo che qua a livello di approccio le inchieste cercano di capire da un lato se siano stati utilizzati i soldi arrivati in queste aree, un totale di 21 milioni di euro, e dall'altro se anche una volta utilizzati questi soldi per gli scopi per cui erano arrivati, mettere in sicurezza anche antisismica gli edifici, queste spese abbiano realmente messo in sicurezza gli edifici e perché non l'hanno fatto negli edifici crollati. Allora, si va dagli aumenti di cubature senza adeguamento alle schede di valutazione di vulnerabilità fino alle divergenze tra i progetti per restauri presentati al Genio Civile e quelli finiti ai comuni di Amatrice Accumuli. L'ipotesi che si siano stati eseguiti lavori di restauro o ampliamento degli stabili rendendoli più esposti al sisma. E allora ci sono i 100.000 euro stanziati per la torre civica di Accumuli, inagibile, i 200.000 destinati alla chiesa di Santa Maria Liberatrice danneggiata, i 150.000 per la caserma dei carabinieri di Accumuli, inagibile, i 260.000 euro destinati alla chiesa di Sant'Angelo di Amatrice danneggiata e i 125.000 euro del complesso parrocchiale di San Pietro e Lorenzo di Accumuli, cui campanile, lo ricordo, crollando ha ucciso un'intera famiglia. Allora, i fondi destinati dopo il 1997 all'intera provincia di Rieti ammontano complessivamente a 46 milioni di euro, 2 milioni nei due comuni di euro solo nei due comuni di Amatrice e Accumuli, in molti casi investimenti non portati a termine, su 19 interventi 9 appunto mancano ancora e non sono ancora stati portati a termine. E poi il tema della scuola di Capranica, crollata. Hanno speso 700.000 euro tra 2011 e 2012, due gare vinte dal consorzio Stabile Valori che riunisce 79 aziende, fa capo agli imprenditori siciliani Mollica. I lavori li ha eseguiti la società Edil Qualità in due tranche, una società locale. E tra l'altro, secondo il rapporto della Guardia di Finanza, adesso bisogna capire che cosa succederà all'amministratore delegato di Edil Qualità, il geometra Gianfranco Tuffarelli, il quale ha detto: ma a me nessuno ha mai chiesto un adeguamento sismico della scuola. Perché questo? Perché il comune di Amatrice aveva scritto, diciamo, a caratteri cubitali che i lavori consistevano soprattutto nell'adeguamento alla vulnerabilità sismica. Insomma, nel ringraziare Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore, oggi si trova a Norcia. Buonasera Mariano. Buonasera a voi. Dove avete avuto scosse anche oggi. Sì, infatti. E nel ringraziare anche Sara Monaci, che sempre per il Sole 24 Ore sta seguendo le inchieste. Buonasera Sara. Buonasera. Io ho gioco facile, tra virgolette, nel partire dalle parole del Vescovo di ieri, durante l'omelia, dicendo però una cosa prima di tutto. E la ripeto volutamente: è giusto che il governo venga chiamato in causa, i governi degli anni scorsi vengono chiamati in causa, lo Stato, la burocrazia, però attenzione, smettiamola di pensare che vi siano delle comunità locali pure, sante e vergini, tutte unite nel mantenimento del territorio, e uno Stato brutto e cattivo, centralistico, che ti riempie solo di burocrazia. Quello che sta emergendo, e poi vorrei eventualmente conferma da Leonardo Maugeri e Sara Monaci, è anche un gravissimo ruolo e dolo e colpa delle comunità locali stesse, che purtroppo sono poi diventate vittime di questa tragedia. La domanda "dov'è Dio?" non va posta dopo, ma va posta prima e comunque sempre, per interpretare la vita e la morte. Come pure va evitato di accontentarsi di risposte patetiche e al limite della superstizione, come quando si invoca il destino, la sfortuna, la coincidenza impressionante delle circostanze. I terremoti esistono da quando esiste la Terra e l'uomo non era neppure un agglomerato di cellule. I paesaggi che vediamo e che ci stupiscono per la loro bellezza sono dovuti alla sequenza dei terremoti. Le montagne si sono originate da questi eventi. Il terremoto non uccide, uccidono piuttosto le opere dell'uomo. Allora, Mariano Margeri, in un paese che si divide sempre tra buoni, cattivi, guelfi, ghibellini, condividi il fatto che qui, è brutto dirlo perché purtroppo queste comunità sono state devastate dal terremoto, ma qui sta emergendo una responsabilità degli amministratori locali, dei sindaci, vice sindaci, geometri, anche gli stessi privati, come scrive giustamente oggi il Sole 24 Ore. Sì, e la controprova sta a Norcia, perché Norcia è rimasta perfettamente in piedi. Adesso sono nella piazza centrale di questo bellissimo paese, ho di fronte alla chiesa di San Benedetto, ci sono delle piccole fratture, lesioni sotto erosione centrale, la chiesa è transennata, qualcuno a casa ha avuto anche lì dei piccoli danni, qualche tramezzo crollato, ma nulla di più, tutto in piedi. E perché? Perché il paese aveva già subito due forti terremoti con pochissime vittime, uno nel 79 e l'altro nel 97, e sono state fatte delle leggi ad hoc, sono stati spesi i quattrini così come andavano spesi e non è successo nulla, quindi è come dire, più chiaro di così si muore. Purtroppo si muore veramente in questo caso. Ripeto, se non ci fossero delle vittime e delle tragedie umane in corso, uno potrebbe essere anche più duro nel giudizio, perché, ripeto, la comunità locale poi deve anche assumersi delle responsabilità collettivamente nel capire che tutto questo non è stato imposto dall'alto. Sara Monaci, quello che sta emergendo è, se ho ben capito, però vorrei da te conferma, è un intreccio che purtroppo nel mondo delle comunità locali altre volte abbiamo visto, tra ruolo dell'amministrazione, sindaco, vice sindaco, ruolo delle società a cui viene affidata la parte cantieristica, i periti sempre gli stessi, i geometri. Sara. Sì, questo sta emergendo giorno dopo giorno, anche se voglio sottolinearlo, l'inchiesta è appena iniziata, sì, certo. Quindi in qualche modo la stiamo anche facendo noi giornalisti con la ricostruzione di fondi e finanziamenti che sono stati dati nel tempo, perché evidentemente questo terremoto ha preso alla sprovvista anche la stessa procura, non è che c'era un'indagine precedente su questi fatti, anche loro stanno rendendosi conto adesso. Evidentemente ci sono degli intrecci che però voglio dire sono molto comuni in un piccolo paese di 3-4 mila abitanti, può succedere che il geometra sia anche vice sindaco, certo. Il punto è che in questo caso il geometra è anche colui che ha contribuito come tecnico, però evidentemente vanno chiarite certe posizioni dal punto di vista penale, però è anche colui che ha fatto alcuni lavori di miglioramento. Io vorrei però sottolineare una questione, perché proprio questa mattina noi abbiamo evidenziato sul Sole 24 Ore che anche il comune, è un pezzo che ho scritto io, non era a norma. Allora, ovviamente ho ricevuto le telefonate dicendo non è vero che non era a norma. Ecco, su questa parola si stanno scatenando le varie interpretazioni, perché è vero che non sono stati fatti degli adeguamenti e dei miglioramenti sismici, però è anche vero che non sono obbligatori. Nel senso che se oggi si ricostruisse da capo una casa bisognerebbe farlo con le norme del 90, quindi sicuramente più adeguate. Però in questi paesi non ci sono stati degli adeguamenti obbligatori, per cui anche il comune si para dietro il fatto che miglioramenti e adeguamenti non sono stati fatti, tuttavia, ed è vero a rigor di legge, sono a norma. Quindi bisognerebbe anche ipotizzare sanzioni o spingere in qualche modo le autorità ad investire obbligatoriamente dei soldi per fare degli adeguamenti. E anche qui non confondiamo le due parole migliorie, miglioramenti e certo. Adeguamenti, perché la scuola che tutti adesso certo. Ovviamente stanno mettendo al vaglio, però hanno avuto dei lavori di miglioramento. Ora guardiamo i soldi spesi, 500.000, 170.000, sono soldi con cui non si fanno degli adeguamenti sostanziali, ma si fanno dei miglioramenti che servono in casi di terremoti lievi, ma non è un miglioramento che incide per il 50 per soltanto arriva fino a coprire il 50% diciamo della struttura, il resto deve essere fatto con un adeguamento che è ben più costoso. Altra questione sono soldi che sono stati effettivamente dati dal 97. Qui volevo arrivare perché insomma dal 97 sì. A Rieti, se ho ben capito, arrivano quasi 21 milioni di euro. Allora 21 milioni se si considera soltanto una parte, cioè se si considera le parti diciamo private e pubbliche, ma io ho un file che è lo stesso che ha acquisito proprio oggi la procura, per cui cui ciò che la provincia ha nei suoi uffici è un riepilogo molto più ampio, 46 milioni se si considerano tutto ciò che è stato stanziato dal sisma del 97, che si arriva a 79 se si considera addirittura il piano precedente. Se andiamo a guardare lavoro per lavoro, ci rendiamo conto che alcuni lavori sono stati ultimati e collaudati, alcuni sono molti ancora da collaudare, altri definanziati, altri ancora da svolgere, per cui in 20 anni in realtà questi lavori non sono nemmeno stati ultimati. Allora, per adesso il tema, Mariano, è: un paese occidentale negli anni 2000 ci può mettere 20 anni per spendere? Perché a questo punto, poi, io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, vedo che tutti qua diventano improvvisamente esperti di terremoti in suo paese, però quello che capisco è che se tu dai 21 milioni, quindi la colpa non è dello Stato centrale, nel senso che qua i soldi sono arrivati, 21 milioni, ci metti 20 anni e in 20 anni non sei ancora riuscito a spenderli, e non mi sembra che il risultato sia stato quello di Norcia. Ora, per carità, ma da qualche parte andrà preso questo tema? Sì, però questo impatta con la struttura dello Stato. So che è un tema laterale che apparentemente non c'entra nulla, ma qui siamo in un sistema finto federale ibrido, se mi passi questa definizione, in cui c'è una moltiplicazione, come dire, di enti, di strutture politiche che, come dire, si elidono l'un l'altra, per cui in tutti questi passaggi tra Stato, regioni, c'erano le province, per fortuna non ci sono più, e i comuni, e i progetti, come dire, si perdono. Le regioni hanno un ruolo fondamentale perché la normativa cambia antisismica a seconda che tu sia appunto nel Lazio, in Abruzzo o in Umbria, sono normative completamente diverse. Non so se ne ha parlato qualcuno prima di me, ma forse molti ascoltatori non sanno che quando tu ristrutturi una casa, anche in territorio sismico, la tua domanda viene accolta automaticamente, e solo sul 5% di quella domanda una commissione del genio civile effettua un sorteggio e quindi decide di approfondire e di capire come è stata formulata. Quindi vengono controllati domanda. Solo il 5% dei lavori per cui tu hai ottenuto un finanziamento dallo Stato? Il 5 o il 15%, a seconda che la zona sia poco sismica o molto sismica. Il che fa rabbrividire l'Abruzzo, l'Umbria nel 2009 ha abolito questo sistema e ha deciso di passare al vaglio tutte le ristrutturazioni. Anche perché non è che qua i privati, esatto, no, ma anche perché i privati, come scrive Sole 24 Ore, hanno anche fatto cubature. Voglio dire, non è che tutti i privati in questo paese siano onesti e lo Stato è sempre colpevole, attenzione. Per cui il genio civile è stato svuotato, perché poi quando chiami al genio civile ti dicono: ma noi siamo in pochi, vogliono, l'Abruzzo vuole replicare il modello umbro, l'ha già fatto in parte, ma si è intasato il sistema, per cui prima la risposta veniva entro 4 giorni, adesso devi aspettare 3 mesi, capisci? Quindi su questo manca un coordinamento, cioè non puoi lasciare a 20 regioni italiane il potere di decidere ognuno a modo proprio come perseguire questo obiettivo. Qui peraltro in Umbria ti dicono che chi dopo gli anni 70 ha messo un tetto, un solaio di cemento armato su una struttura in pietre è un criminale, perché qui costruiscono con solai, che legno lamellare, in strutture leggere, possono essere i tipi più svariati, ma non caricano una struttura fragile con un solaio di cemento armato, cioè lo capirebbe, non bisogna essere geometri o ingegneri per farlo. Invece questo modello si è imposto non solo ad Amatrice, ma in tutti i paesi di quella zona. Allora, restate con noi, mi rendo conto che uno possa anche perdersi, però se non si affrontano i temi nella loro sostanza, poi continuiamo a piangerci, a piangere le vittime, a piangerci addosso, a dar la colpa ai governi, che per carità le hanno la loro responsabilità, però attenzione, ci sono anche i privati. Questa storia che la società civile sia sempre più civile di chi le governa, a me non ha mai convinto fino in fondo. Ci sono i privati che hanno in alcuni casi abusato di finanziamenti o mal usato i finanziamenti, ci sono le amministrazioni, ci sono le ditte appaltanti, e poi c'è questa cosa dove io sono d'accordissimo con te Mariano, allucinante, ricordo un po' quello che avviene per il turismo e per altre cose, cioè le regioni che possono stabilire in maniera autonoma e diversa da una regione limitrofa quelli che sono, diciamo, i parametri antisismici. Chiaramente, voglio dire, il terremoto, però, è giusto che lo sappiano anche i nostri amministratori, non distingue tra Regione Umbria e Regione Lazio e tra Regione Abruzzo e Regione Marche. Ha questa caratteristica che se ne fotte dei confini regionali. Meteo. Focus Economia. :17:39 Allora, Sara Monaci, per concludere questa prima parte, visto che le inchieste delle procure sono due, sì, come ricordavamo, e quindi non c'è solo Rieti, ma c'è anche l'indagine dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Come e che strada potrebbero prendere queste, chiamiamole così, tre inchieste? Sì, diciamo che siamo agli inizi e quindi si dovranno coordinare. Certo. Al momento le procure sono quelle del territorio, sollecitate proprio da motivi tecnici, mm-hmm, si indaga laddove c'è l'avvenimento. Al momento Ascoli Piceno però non ha ancora dato chiare deleghe, per deleghe si intende non ha messo al lavoro dei corpi speciali, che può essere Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Forestale. Siamo mm-hmm ancora dentro questa indagine ispettiva dove non ci sono né reati né indagati. Un po' più avanti Rieti, che ha dato appunto l'incarico, la delega ai Vigili del Fuoco, alla Forestale, alla Polizia, poi questa mattina appunto abbiamo visto il blitz della GDF nei locali negli enti pubblici, nei locali della provincia a Rieti. Aggiungo che però per quanto tutta la procura di Rieti si stia impegnando, lo stesso procuratore capo ha gradito la mano tesa dei colleghi della procura di Roma, che si sono offerti per dare una mano qualora ci fosse bisogno di studiare, perché evidentemente qua le pratiche da recuperare saranno molte. L'ANAC sta indagando intanto parallelamente, perché quello che sta emergendo anche proprio da inchieste giornalistiche e dalle stesse indagini della procura, che potrebbero esserci delle irregolarità, magari non direttamente collegate al sisma, perché è evidente che poi l'adeguamento antisismico è qualcosa di ben specifico, però evidentemente dentro poi gli appalti potrebbero essere venute fuori irregolarità, abusi, che, perché dico indirettamente collegate, mm-hmm, ma pur sempre collegate, perché come diceva prima anche il collega Maugeri, poi quando si va a parlare di abusi edilizi, di irregolarità, poi difficilmente ci si occupa della procedura antisismica. Ecco, io credo che poi a un certo punto tutti questi vari rivoli si riuniranno. Verranno riuniti. Sì, io credo. Quello che mi dice la mia esperienza è che rimarrà prevalentemente tutto a Rieti e poi ci sarà un buon contributo della procura più ampia di Roma. Ricordiamo però che in questo momento anche soltanto recuperarlo il materiale per le indagini è un problema, perché il comune, ad esempio, il comune di Amatrice non esiste più, e come abbiamo anche sottolineato oggi diventa un problema anche pagare le buste paga, perché non ci sono dei dati che riepilogano lo stato dei dipendenti, che non è un problema da poco in questo momento. In questo momento anche un altro fatto sta emergendo, che questo paese molto burocratico non ha ad esempio un'informatizzazione nazionale, non esiste più un'anagrafe, non esiste l'anagrafe nazionale nonostante se ne sia parlato da tempo. Mi parlano di progetti, di idee già dal 2010, però in questo momento il comune di Amatrice è senza addirittura un dato di bilancio per vedere non solo quanti soldi sono stati stanziati, ma anche quelli da stanziare. Quindi figuriamoci qual è la situazione. Non si riesce nemmeno a avere i moduli, mi hanno detto questo, che i moduli per la sepoltura sono stati scaricati da internet. Quindi capite qual è la situazione, certo, per recuperare. C'è un problema enorme anche di accesso, diciamo così, agli atti amministrativi e agli atti burocratici, che non toglie poi quello, e noi continueremo a monitorare le indagini della magistratura, perché il dolore delle vittime, dei parenti delle vittime soprattutto, però attenzione, se deve tra virgolette essere di memento per il futuro una vicenda del genere, bisogna andare fino in fondo e raccontare esattamente chi si è mangiato i soldi, chi ne ha abusato, chi li ha stornati su altro, anche andando a vedere se ci sono responsabilità dei privati, che delle volte possono anche essere poi vittime e di loro stessi e delle amministrazioni locali, per poi fare la critica su base nazionale. Chiarissimo quello che tu dicevi dell'anagrafe, così come io trovo inaccettabile, per ritornare alle parole di Mariano Maugeri, che in questo paese non vi sia un'unica, diciamo, coordinamento su ciò che deve essere il criterio antisismico in un paese ad altissimo rischio sismico, e si lascia alle regioni pure questa. Su questo vorrei però aprire una piccola parentesi: non lo sappiamo perché evidentemente il referendum sta andando su altri temi più politici, più ampi, però tra le cose che dovrebbero ritornare allo Stato c'è anche la protezione civile. La protezione civile referendum. E il turismo con il referendum, ma ne parleremo del referendum, ci mancherebbe. Dopodiché, ripeto, alcune cose, referendum o non referendum, lo abbiamo detto per cose molto più lievi come, ma ben pesanti dal punto di vista economico, come la gestione del turismo e della promozione turistica, alcune cose sono troppo importanti per essere lasciate alle regioni. Grazie a Sara Monaci, andiamo adesso sulla borsa. Giornata oggi leggermente positiva, più 0,31%, dicevamo Milano in chiusura, Parigi meno 0,43%, Francoforte meno 0,60%, Londra meno 0,50%, Dow Jones meno 0,36%. Oggi in recupero molti titoli bancari, del motivo per cui Milano è leggermente diversa dalle altre borse europee. Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, è soprattutto UniCredit, alla luce anche delle indiscrezioni circolate, a guadagnare oggi in borsa. Chiude, anche se poi l'ha superata nel finale, Intesa San Paolo, più 4,21 Intesa San Paolo, UniCredit più 3,50%. I motivi? Beh, da giorni che si rincorrono le indiscrezioni su quale sarà la portata del piano industriale di UniCredit dell'autunno e soprattutto come sarà composto in termini di aumenti di capitale, di dimensione dell'aumento di capitale e invece di dismissioni. L'indiscrezione, soprattutto comunque le indicazioni che arrivano sia per UniCredit sia per il Monte dei Paschi, è sul fatto che i manager stanno facendo di tutto per ridurre le dimensioni dell'aumento di capitale, facendo ricorso a dismissioni che nel caso di UniCredit potrebbero riguardare sia la polacca Pekao, sia quote in FinecoBank, sia la quotazione dell'asset management e in particolare di Pioneer. Queste indiscrezioni tengono forte il settore bancario, che è stato però acquistato in tutta Europa anche per l'indiscrezione della ipotesi di alleanza in Germania tra Commerzbank e Deutsche Bank. Sì, devo dire che il numero uno di Deutsche Bank, John Krein, ha dichiarato di non cercare un partner sul mercato tedesco, però e ha risposto no alla domanda se fosse interessato a una fusione. Quindi ha negato il piano di fusione, ma chiaramente sappiamo che di solito si compra sulle voci e si vende sulle notizie. Andiamo avanti con invece altri titoli. Oggi il settore industriale più debole, penso soprattutto a Tenaris, settore industriale legato al petrolio, ma non solo. Tenaris meno 2,50, Buzzi Unice meno 2,40, ST Microelectronics meno 1,70, Campari meno 1,60, Hughes Net-a-Porter meno 1,5 come A2A, Telecom perde l'1,30 e Eni l'1,20%. Sì, soprattutto le scorte di petrolio che sono state pubblicate alle 16.30, scorte americane, che hanno evidenziato un incremento ben oltre le attese dei barili di petrolio stoccati negli Stati Uniti, hanno fatto crollare il prezzo del petrolio del 3% e hanno portato a vendite consistenti sul settore petrolifero e su quello delle materie prime, che invece si era mantenuto, diciamo, debole ma non con perdite consistenti nella prima parte della seduta. Tant'è vero che Eni, che viaggiava intorno alla parità, ha perso oltre l'1%, ma questo è avvenuto in tutta Europa anche per i minerari e a Londra per le società di metalli preziosi, perché la forza del dollaro sta continuando a penalizzare le materie prime e i preziosi, che stanno correggendo, quindi fanno le spese le società del settore. Andiamo sui migliori e peggiori della seduta di borsa oggi. Per quello che riguarda i migliori, SNAI più 18%, Commerzbank sulla scia di quello che tu raccontavi più 11,70%, Poligrafici Printing più 10%, Mea Tecnimon più 5,80% e poc'altro, Alerion più 5,40%. mentre tra chi perde di più, Green Power meno 4,40, la Lazio meno 4%, Visibili Editore meno 3,50%. Grazie anche Andrea Fontana, adesso c'è il traffico e poi ci spostiamo a Maranello, dove è iniziato, in corso l'incontro, il vertice cosiddetto intergovernativo tra Italia e Germania. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia nella versione che resterà fino a questa settimana alle 18, in realtà venerdì saremo in diretta dal workshop Ambrosetti di Cernobbio e termineremo alle 18.30. E ultima parte, dicevo, e cerchiamo di capire, perché ancora da quello che abbiamo visto non vi sono dichiarazioni, il tono e i temi soprattutto dell'incontro tra Angela Merkel e Matteo Renzi a Maranello. Sono presenti anche altri ministri del governo. È lì inviato il nostro Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera Sebastiano. Si diceva un vertice che, al di là del riferimento obbligatorio, d'obbligo al terremoto che ha colpito il centro Italia, dovrebbe avere come centro soprattutto i temi di carattere economico, con un cotè anche sul fronte immigrazione. Sergio. Sì, assolutamente sì, questo almeno è quanto anticipato ieri, soprattutto da parte tedesca, che è un segnale poi, se vogliamo, anche abbastanza interessante, perché in qualche modo la Germania stessa ha detto o ha ammesso che poi l'economia sarà al centro di questo vertice. In questo momento sono riuniti Premier Renzi con la cancelliera tedesca Merkel, ma in serata arriveranno anche diversi ministri, tra questi Padoan per l'economia, Gentiloni per gli esteri, Alfano per l'interno, Calenda per lo sviluppo economico, Del Rio per le infrastrutture e la Pinotti per la difesa. Chiaramente si parlerà, lo annunciavi tu, della flessibilità che l'Italia potrà strappare, se vogliamo, per Casa Italia, il progetto appunto antisismico, sia nell'immediato ma anche, se vogliamo, in prospettiva. Non è tecnicamente qualcosa che compete alla Germania ma alla Commissione Europea, però chiaramente la Germania ha un ruolo preponderante. Più in generale il tema della flessibilità che l'Italia può sperare di strappare anche il prossimo anno, come questo è il desiderio del nostro governo. E poi ci sono anche temi importanti come il piano Juncker, l'Italia, e questo sarà un tema importante nel bilaterale tra Padoan e Schäuble. L'Italia spinge per investire ulteriormente nel piano Juncker e anche in progetto per il sostegno alla disoccupazione su scala europea, e poi anche gli investimenti, e da parte nel bilaterale che Calenda avrà con il suo omologo tedesco anche il tema dell'industria 4.0, quindi un calendario, un menu assolutamente fitto. Ecco Sergio, come tu già però anticipavi, di un menu fitto, perché poi c'è anche il fronte, visto che ci sarà anche il ministro Gentiloni con il suo omologo tedesco, anche il fronte immigrazione e gestione dei confini europei, però il cuore di tutto riguarderà, anche qui vedo molti messaggi, attenzione, non è che la Germania deve darci via libera alla flessibilità, il via libera alla flessibilità lo dà Bruxelles, però per non fare le mezze vergini, come dicono in francese, sappiamo benissimo che la Germania, essendo il partner di maggior peso dell'Unione Europea, è determinante. Cioè, un orientamento favorevole della Germania vorrebbe dire probabilmente un orientamento favorevole complessivo di Bruxelles. E qui c'è un doppio tema, Sergio, perché l'Italia, ancora prima del terremoto, si apprestava a chiedere e a utilizzare la flessibilità, perché il PIL non sta crescendo come dovrebbe o come ipotizzato, è impossibile che faccia l'1-2%, se va veramente bene arriveremo all'1, molto probabilmente arriveremo tra lo 0,7 e forse lo 0,8%, e quindi c'era già una richiesta di flessibilità a cui, se ho ben capito Sergio, andrebbe a sommarsi anche quella per il progetto Casa Italia? Sì, questo almeno è quanto si augura l'Italia, però non dimentichiamo che la Commissione Europea su questo è stata abbastanza esplicita, ha detto nel breve termine, tutto ciò che nel breve termine per l'emergenza verrà speso si toglie, ma sul lungo termine diciamo l'orientamento di Bruxelles non è quello esattamente di concedere flessibilità. Importante, lo dicevi tu, l'atteggiamento di Angela Merkel, perché nel vertice di 9 giorni fa a Ventotene Angela Merkel ha detto che c'è già abbastanza flessibilità nei trattati. Questo si può leggere in due modi, sia una chiusura dicendo che insomma che già va bene così, diciamo. Già va bene così, ma anche potenzialmente un'apertura, lasciando un po' la palla e il margine a Bruxelles, alla Commissione Europea, lasciando il lavoro sporco, come dire, alla burocrazia europea. È stata un po' sibillina quella frase. Ricordiamo che Angela Merkel ora ha due appuntamenti elettorali importanti nel Mecklenburgo domenica e poi più avanti anche a Berlino, quindi è già in campagna elettorale, già in un treno di campagna elettorale che poi la porterà alle elezioni di settembre del prossimo anno. Quindi deve stare molto attenta a calibrare, diciamo, le sue parole e anche le eventuali aperture. Sì, e tra l'altro ci siamo già accorti che la Germania, diciamo così, sia in campagna elettorale dalle posizioni in ordine abbastanza scomposto che sono arrivate sul tema dei trattati intercontinentali, il TTIP, dove prima il ministro dell'economia ha detto sono morti, nel senso non si va più avanti, poi è stato smentito dalla portavoce di Angela Merkel. Oggi un altro ministro ha detto no, faremo il possibile per andare avanti sugli accordi bilaterali. Da questo punto di vista, Sergio, vi aspettate che vi sia anche qualche dichiarazione sul TTIP o si lascia volutamente la palla soprattutto a Bruxelles? Al momento è sicuramente tra i temi in agenda, non è uno dei primi, l'impressione è questa, però il menù, come dicevamo prima, è talmente vasto che potrebbero anche parlarne, anche perché comunque è un tema molto importante, non solo per le differenze interne al governo tedesco, ma non dimentichiamo che la Francia stessa ieri ha praticamente messo la parola fine da parte sua alle speranze di un accordo, quindi è evidente che il tema è di strettissima attualità, perché o si chiude entro fine anno o di fatto questo trattato di libero scambio resterà lettera morta, per cui sicuramente figurerà all'interno dei colloqui questa sera, sicuramente. Quanto peso avrà è difficile dirlo, perché il menù è veramente, veramente piccolo. Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, ci confermi che la conferenza stampa dovrebbe essere intorno congiunta di Renzi e Merkel, dovrebbe essere intorno alle 18:30 o sta slittando? Il programma, finora il programma è stato abbastanza rispettato, le indicazioni erano 18:30, però spesso in questi vertici, a dire la verità, chiaramente io rimando a questo punto anche al GR delle 19, al tuo collegamento con il GR delle 19. Grazie intanto al nostro Sergio Nava in collegamento con noi appunto da Maranello. Vedo molti messaggi sul tema della società civile, quindi guardate che abbiamo detto una cosa un po' diversa da quello che scrivono alcuni. Ho solo detto che l'idea che vi sia una società civile tutta pura e buona, magari sul locale, comunità locali, è uno Stato, è una classe politica sempre sporca e cattiva, non mi convince neanche nel caso del terremoto nel centro Italia, perché se andiamo a vedere gli abusi, li ha fatti la cosiddetta società civile, anche alcuni privati, gli amministratori erano amministratori locali e ben conosciuti. E quindi attenzione, una società civile onesta e sana e tenderà a eleggere amministratori onesti e sani, una società civile che tende un po' più a farla furba, all'illegalità, tenderà a eleggere amministratori locali di quel tenore, ok? Perché poi alcuni mi scrivono dal Friuli, guardate il nostro esempio, altri giustamente dall'Umbria, ecco, questo volevamo dire. Basta non partire subito con l'idea che tutti i puri e le vergini siano da una parte e tutto il male sia dall'altra. Non sta emergendo purtroppo questo dalle prime inchieste della magistratura nei casi che abbiamo raccontato. Comunque, da Sebastiano Barisoni l'augurio comunque di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.